in primo piano. Venerdì 4 marzo c'è chi sceglie come il Sole 24 Ore l'apertura sulla BCE, pronta ad alzare i tassi. E l'apertura anche del Corriere, tassi più alti contro l'inflazione. Per la Libia l'ultimatum di Obama, questo per Repubblica. Obama rovesciate Gheddafi, questo per La Stampa. Anche Avvenire, un ponte umanitario scatta il piano UE-Italia. Gheddafi bombarda i pozzi, questo è il titolo di apertura invece del Messaggero. Vedremo varie aperture, io vi annuncio già che avremo il ministro degli esteri Franco Frattini alle 8.20, protagonista nell'intervista, parleremo certamente di Libia. Da cosa voglio partire però? Due segnalazioni. La prima, quella del venerdì, che vi mette di buon umore, così affrontate il weekend con il piglio giusto. Dal Giornale, pagina 9, i deputati dell'Unione Europea si premiano con altri 1.500 euro al mese. Un blitz bipartisan, racconta Massimiliano Scafi, perché una settimana ci hanno messo a trovare una posizione comune sulla Libia, ma per aumentare di 1.500 euro al mese i fondi a disposizione per le spese di segreteria, ai deputati di Bruxelles sono bastati pochi secondi, giusto il tempo di premere un bottone e votare sì. Nonostante lo sdegno di Sinistra Unitaria, Liberaldemocratici, i Verdi che parlano di scandalo, ecco qui, ognuno dei 736 euro parlamentari ora avrà a disposizione 21.000 euro al mese per pagare gli assistenti, i portaborse e tutte le spese di segreteria. Primo risultato, le spese dell'Assemblea aumenteranno di colpo di 13.200.000 euro l'anno. È davvero un provvedimento scandaloso, ha detto la verde Helga Truppel, che ha cercato di opporsi in tutti i modi. Sta di fatto che, scrive il giornale, i 17.540 euro mensili previsti per ora per le spese di segreteria non erano sufficienti e dunque sono stati portati a 21.000 euro al mese. D'altronde, racconta Scafi, restano che cosa ai parlamentari europei? 8.000 euro al mese lordi di stipendio, 4.299 sempre mensili di indennità per le spese generali, 4.243 euro annuali per i viaggi al di fuori dello stato di elezione, 304 euro al giorno di indennità di soggiorno. Benissimo, passiamo alla Stampa, la seconda segnalazione. La prima era appunto del giornale, I deputati europei si premiano con altri 1.500 euro al mese. Passiamo alla Stampa, per l'appunto, a pagina 13. Sapete che c'è tanta diatriba sulla questione della Lega, che sulla festa del 17 marzo, i 150 anni dell'Unità d'Italia, insomma, si è anche battuta perché gli uffici rimanessero aperti, perché non si festeggiasse, o perché, non, perché fosse festa, ma perché si andasse comunque a lavorare. Beh, la notizia viene dal comune di Novara. L'Unità d'Italia costa un giorno di ferie ai dipendenti del comune leghista. L'ordinanza del segretario comunale va conteggiato quel giorno come una vacanza. Per i dipendenti del comune di Novara, feudo leghista da un decennio, il 17 marzo non sarà festa nazionale per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma un giorno di ferie qualsiasi. Sarà obbligatorio, cioè contabilizzato l'ufficio, secondo il burocratese della circolare appesa ieri in bacheca, e gli 800 lavoratori del municipio non l'hanno presa per niente bene. Se ne chiama fuori la vice sindaco Silvana Moscatelli, scrive la Stampa, non ne so nulla. Si chiama fuori anche l'assessore al personale Franzinelli, sono a Roma, non ne so nulla. Sta di fatto che i dipendenti denunciano, hanno cercato di far passare la decisione sotto silenzio. Il 17 marzo ce ne stavamo tutti a casa e poi in busta paga ci ritrovavamo un giorno di ferie in meno di cui magari nessuno se ne accorgeva neppure. Ecco, insomma, la spiegazione: a Novara si festeggia l'Unità d'Italia, si sta a casa, ma ai dipendenti, 800 dipendenti del comune di Novara, verrà conteggiato come un giorno di ferie. La Libia sicuramente è ancora in primo piano perché parte questa doppia missione italiana, via libera la doppia missione, a pagina 7 del Sole 24 Ore Marco Ludovico racconta quella che sarà la doppia missione, una in Tunisia al confine con la Libia, una invece a Bengasi, dunque la Libia stessa, per cercare di evitare quello che è l'ondata di migranti e quindi approntare quel piano B annunciato dallo stesso Maroni, nel caso dovessero arrivare 50.000 sono stimati i possibili migranti. Tra l'altro il Sole intervista Elisabetta Belloni, a pagina 7 lo fa Gerardo Pelosi, è la responsabile della Farnesina che coordinerà tutti questi sforzi umanitari. Una cosa è certa, siamo il primo paese a portare in Libia aiuti umanitari, sono quelli che ci ha forniti la COP, insieme ai generatori di elettricità, ai potabilizzatori d'acqua, i kit sanitari di patologia generale, saranno presi in consegna dal pattugliatore della Marina Libra, che partirà oggi dal porto di Catania alla volta di Bengasi. Il piano B invece è quello che prevede, se non si riesce a dare assistenza in loco e fare rientrare soprattutto la gran parte sarebbero egiziani ammassati al confine tra Libia e Tunisia, a quel punto c'è il rischio di questo piano, di dover approntare questo piano B per l'arrivo di 50.000 persone. Maroni fa sapere verranno ridistribuite tra le varie regioni dovessero arrivare in Italia. L'altro scenario però politico, mentre Gheddafi davvero sembra non voler cedere, Obama ha detto Gheddafi se ne vada, ma Gheddafi ha risposto qualche giorno fa in un'intervista con quella sonora risata che avevamo fatto sentire, e ora si profila questo tipo di scenario perché il Corriere della Sera mette a pagina 6. E se il Rais resta al potere? Questa domanda ci si chiede, che fa l'Occidente? Può essere ancora un interlocutore credibile? Dopo che anche la Corte Penale Internazionale ieri formalmente ha aperto contro di lui e alcuni suoi familiari una inchiesta per crimini contro l'umanità? Può davvero Gheddafi essere un leader riconosciuto e riconoscibile dalle potenze occidentali? Beh, intanto queste domande le faremo al ministro Frattini, vi ripeto, alle 8.20 sarà il nostro ospite. Questo per quel che riguarda la Libia, mentre le cose interne di politica ci sono cose un po' sfiziose, cose un po' curiose e poi le solite cose. Le solite cose sui giornali sono certamente la vicenda giudiziaria del presidente del Consiglio Berlusconi, anche perché ieri c'è questo giallo che si è dipanato nella giornata, vale a dire la presentazione di una proposta di legge da parte di un ex sottosegretario, un avvocato del PDL, onorevole Vitali. Spunta la legge ad personam, così la titola Repubblica, norma PDL per ridurre la prescrizione. Sono 44 articoli che in pratica, scrive Eliana Milella su Repubblica, dicono questo: se hai 65 anni Repubblica fa notare Berlusconi ne ha 74, le circostanze attenuanti devono prevalere su quelle aggravanti e se applicate quelle il reato si prescrive, il giudice dichiara la morte del processo. E poi altre norme, insomma, che sembrano tutte fatte cucite su misura, tanto che infatti Vitali, intervistato su Repubblica da Antonello Caporale, dice subito: io faccio la norma che serve. Lei, come un bravo sarto, cuce su misura. Lei mi rimanda ai ricordi della salva Previti, ma purtroppo non servì. Ieri lei, Vitali, in un pomeriggio, chiede Antonello Caporale, ha presentato il vestito. Ho fatto tutto da me, sono un tipo pragmatico, vado al cuore del problema. E poi dice, attenzione, ma se sei un over 65, sei recidivo, io faccio in modo di aggravarti la pena. Per fortuna, chiede Repubblica, il presidente non è recidivo. Attento, risponde Vitali, qui si fanno le leggi erga omnes. Poi può capitare che anche il premier ne tragga giovamento, ma è una colpa? Tra l'altro, su questa norma che è spuntata, pare ci sia subito una ostilità dallo stesso. Allora, il presidente del Consiglio sul Corriere della Sera, Berlusconi, ha detto: io non ne so nulla di questa norma. Pare che Ghedini sia infuriato. Ghedini è dato come uno andato su tutte le furie quando ha avuto notizia dell'iniziativa di questo collega, il collega Vitali. Prima lo ha chiamato, lo ha invitato a tornare sui suoi passi, perché una proposta del genere potrebbe offrire strumentali polemiche, in particolare per ciò che riguarda la prescrizione. Insomma, pare che questa norma davvero sia un po' una butadda che farà poca strada, se è vero che Berlusconi ha detto non ne so nulla e lo stesso Ghedini viene dato dal Corriere come infuriato per la presentazione di questa proposta di legge. In ogni caso ci sono anche dei particolari invece curiosi sulla vicenda Ruby in sé. Due li dà il Corriere, uno lo dà il Corriere della Sera, ed è questo: il tassista che porta Karima ad Arcore potrebbe raccomandare mia figlia? Cioè, spulciando tra i vari interrogatori, si scopre anche di questo tassista che nell'aprile 2010 portò questa bella ragazza appariscente a Villa San Martino e allora pensò, evidentemente, una che può aiutare mia figlia se è introdotta nella residenza del Presidente del Consiglio. Gli dice se le può lasciare il curriculum, sa mia figlia, manda curriculum a tutti, nessuno le risponde, è laureata. E Ruby dice sì, ma poi le chiede a questo tassista 500 euro in contanti per l'aiutino. E il padre tassista ci resta davvero male. Mi sono sentito molto offeso e preso in giro da lei. Quindi questa vicenda con Ruby, che avrebbe chiesto a un tassista 500 euro per portare il curriculum a chi di dovere. E poi c'è anche questa vicenda ancora dell'età di Ruby, sulla quale il Corriere dice dovrebbe, ieri sapete, pare che la strategia di Berlusconi, questa dai giornali, fosse anche questa, dimostrare con certificati che Ruby è stata iscritta all'anagrafe 2 anni dopo e quindi era maggiorenne quando ha frequentato la villa di Arcore. Il padre mai truccata l'età di Ruby, questo su Repubblica, mentre il Corriere pubblica anche la foto del passaporto di Ruby rilasciato dal Marocco, data di nascita 1 novembre 1992, e quindi secondo questo documento Ruby era minorenne, insomma nel 2010, quando per la prima volta è entrata nella villa del Presidente del Consiglio. Questo almeno per quel che riguarda la vicenda giudiziaria. Poi c'è Fini. Ieri Fini, io non l'ho visto porta a porta, ma vabbè, è stato molto duro, il premier Bossi. E poi c'è stato anche un duello al calor bianco con Vespa. Lei ha la coda di paglia, Fini a Vespa. Lei frequenta il Presidente del Consiglio, Fini a Vespa. Io non frequento nessuno, ha risposto Vespa. Poi a un certo punto, lei offende la mia intelligenza, ha detto Fini a Vespa. E Vespa, mi fa piacere. Insomma, c'è stato, pare, un battibecco continuo in questo porta a porta con Vespa, che alla fine ha detto ce l'ha con me dopo un servizio che ho fatto sulla casa di Monte Carlo. Mentre il giudizio dato dal Corriere della Sera con Marco Galluzza, pagina 13, di Berlusconi su Fini è abbastanza lapidario. Ha dilapidato una carriera politica, il suo esperimento è fallito, è un ottimo liquidatore di partito, di partiti. Questo scherzando con i suoi ospiti a Palazzo Grazioli, dice Fini. Anche se, allora, che ci sia qualche tensione all'interno del governo viene certificata in questi consigli dei ministri, tra l'altro, che sono sempre un po' anche questi battibeccati, almeno stando ai retroscena della politica. Il motivo è sempre quello, i soldi. Tremonti continua a dire i soldi non ci sono. E è andato in scena che cosa? Raccontano sia il Corriere della Sera, pagina 11, che il Secolo XIX, a pagina 5. Beh, Tremonti, se è vero quello che dicono, ha fatto una genialata, no? E cioè il tema era i fondi per la polizia, i fondi per le forze dell'ordine. Il premier Berlusconi ha detto ci vogliono 80 milioni. E allora in Consiglio dei Ministri La Russa e anche Maroni hanno detto a Tremonti, hanno fatto presente questa cosa, e subito Tremonti ha detto i soldi non ci sono. Questi sono i retroscena di quello che sarebbe successo, eh? Al che Gianni Letta, il solito mediatore con i suoi soliti toni pacati, ha invitato La Russa, Maroni e Tremonti a fermarsi dopo il Consiglio dei Ministri per chiarire la questione una volta finita la riunione. È solo che Tremonti cosa ha fatto? Si è dileguato. Cioè, alla fine del Consiglio dei Ministri, Letta, Maroni e La Russa sono lì. Allora, dov'è Tremonti che facciamo queste due chiacchiere per chiarirci? Non c'è, è sparito. E questo dicono almeno i giornali. Tanto che La Russa avrebbe sbottato, insomma, non si fa così, davvero non è il modo di fare. E Maroni avrebbe detto, è inaccettabile. Tremonti lascia il tavolo e Maroni non apprezza questo per il Corriere, mentre il Secolo XIX non c'è un euro. Tremonti, assediato, si alza e se ne va. Questa sarebbe la nuova strategia, la fuga magari ha atteso un momento di distrazione e si è dato per cercare di, per non chiarire, non voler neanche chiarire questa questione. Oh, che dire, sulla politica c'è anche Libero e il Giornale se la prendono con Bersani e le firme. Il PD sta raccogliendo le firme per mandare a casa Berlusconi, dicono abbiamo 10 milioni di firme, ma sia il Giornale che Libero dice quanti falsi in queste firme. Laura Cesaretti, le firme patacca del PD ci sono pure. Silvio Berlusconi, che ha firmato per mandare a casa Silvio Berlusconi. Hitler, Castro e Papa Wojtyła. E anche il Libero mette in prima pagina questo uomo è un pataccaro ed è Bersani. Tra l'altro il giornale ingaggia anche una dura polemica: sono in mala fede, vogliono nascondere la verità, il PD alla frutta, scrive, hanno lanciato la raccolta di firme contro il premier Berlusconi, han detto di averne milioni e incuriositi i giornalisti del giornale hanno indagato, hanno scoperto che tra le firme c'è anche Silvio Berlusconi, Adolf Hitler, Fidel Castro. Il giornale se n'è accorto e il partito del PD che fa? Reagisce attaccando il giornale, accusandoci di essere stati noi a mettere le firme false sul loro sito. Si vergognino i signori democratici, scrive in una nota il giornale. Sono due volte in malafede, non si accorgono, non vogliono accorgersi delle firme patacca e poi, pescati con le mani nella marmellata, scaricano le colpe sugli altri. Vabbè, la polemica sulle firme, così come di polemica c'è molto sul l'election day mancato. Ci sono molte pagine al riguardo, è il tema del nostro sondaggio. Maroni ha detto le amministrative si terranno 15-16 maggio il primo turno e il 29-30 maggio il secondo turno, mentre per lui il referendum si deve tenere il 12 giugno, in una terza data. È tutta norma di legge, il tempo fino a, per le elezioni del referendum, per il referendum, per le votazioni è fino al 15 giugno, però certo le opposizioni insorgono, ma se non si accorpa il referendum a una delle due votazioni delle amministrative si perdono 350 milioni di euro, è un modo per far votare quando le scuole sono chiuse, gli italiani sono al mare, si perdono, quindi i referendum non passano, tra i referendum ce n'è uno sul legittimo impedimento, dunque l'accusa anche di dire vogliono boicottare un referendum che può mandare a casa Berlusconi, insomma la solita polemica politica. Noi ne parleremo alle 8:30, il Sole 24 Ore tra l'altro scrive nel commento a pagina 16 Non è stato possibile accorpare le elezioni amministrative e francamente non comprendiamo le ragioni addotte. Il ministro Maroni ha tirato in ballo la tradizione italiana che ha sempre distinto in materia. Ma bene, le tradizioni non sono leggi ed è invece una legge quella che servirebbe, una norma che in caso di consultazioni elettorali multiple prescriva di evitare duplicazioni e imponga l'election day e dunque il risparmio del denaro dei contribuenti tra i 300 e i 350 milioni di euro. Per i curiosi, un po' i morbosi, interesserà sicuramente il fatto che Giuliano Ferrara guadagnerà 1,5 milioni di euro per rifare Radio Londra, che sarà in onda fino al 2014. Questo scrive il Fatto Quotidiano a pagina 5. La RAI si allarga, 3 anni il contratto con Giuliano Ferrara, maxi contratto da 1,5 milioni di euro. Guadagnerà 3.000 euro a puntata di 5 minuti in onda subito dopo il TG1 dal 14 marzo senza pubblicità. Questo per il Fatto. C'è molto ancora di Affittopoli, le case, questa volta ci si concentra su Roma. Il giornale Libero puntano molto su che cosa? Il Fatto, ma anche il Corriere, anche il Messaggero, ovviamente come quotidiano di Roma. Il figlio di Visco ha ottenuto, questo secondo i giornali, ha acquistato, il figlio dell'ex ministro, ha acquistato a prezzo non di mercato un immobile a Roma, ma poi anche lo scrittore Predrag Matvievich. E poi una lista di beni di immobili di proprietà del Comune di Roma sono finite da associazioni culturali e poi dirottate o comunque trasformate in sedi di partito, in particolare del PD e di Sinistra e Libertà. A proposito di Sinistra e Libertà, sul Fatto Quotidiano, riguardo ad Affittopoli, c'è un articolo molto molto malizioso nei confronti di Giuliano Pisapia, il candidato sindaco per il centro-sinistra a Milano. Ultime lettere dal Trivulzio, questa pagina 6. Che cosa c'è scritto in questo articolo di Davide Vecchi? Beh, sapete, la vicenda è che la compagna di Pisapia, giornalista di Repubblica, Cinzia Sasso, abitava in una di queste case del Pio Albergo Trivulzio. Beh, la disdetta del contratto di Cinzia Sasso, secondo il Fatto Quotidiano, è arrivata 24 ore prima che scoppiasse lo scandalo. Una lettera di appena 5 righe, datata 16 febbraio scorso e consegnata la mattina del 17, quando nelle redazioni già si conoscevano le liste dei privilegiati inquilini del Pio Albergo Trivulzio. Sono un'inquilina del vostro stabile di corso di, vabbè, non dico l'indirizzo. E intendo con questa mia dare disdetta del mio contratto d'affitto. Preciso che è da tempo che intendevo definire la pratica che mi riguarda e che non mi è più possibile aspettare. Non è indicata una motivazione, ma sottolinea la giornalista i locali, come ripetutamente segnalato, hanno subito negli ultimi anni danni per infiltrazioni dal pluviale, la sistemazione dei quali non avete mai ottemperato. Insomma, una lettera che però è arrivata quando, dice il fatto, già la vicenda stava per esplodere sui giornali con annesse polemiche. Io voglio andare di fretta, invece, questa vicenda di cronaca che trovate sui giornali, dovunque, è che è molto inquietante, il Corriere la mette in prima pagina. Violentata in cella da 3 carabinieri e un vigile urbano. Una denuncia shock di una trentenne che viene anche intervistata sotto anonimato da Repubblica, pagina 23, la vicenda di questa donna originaria di Crema che è stata fermata per un banale furto a un supermercato a Roma, ha dovuto passare la notte nella caserma dei carabinieri e dice sono stata violentata a turno da 3 carabinieri e un vigile urbano. Mi hanno fatto bere del whisky, ho chiesto loro qualcosa da mangiare, avevo fame, mi hanno fatto uscire dalla cella, mi hanno portato in sala mensa ed è lì che è successo il peggio. Anche Repubblica, stuprata dai carabinieri in caserma, denuncia shock di una donna a Roma. È una vicenda che certo avrà delle ripercussioni, c'è un'inchiesta aperta, i carabinieri sono stati spostati difendendosi su Repubblica, parlano di sesso ma consenziente, tra l'altro Carlo Bonini su Repubblica dice la loro difesa è qualcosa di odioso perché hanno goduto del suo corpo, diventa oltraggioso parlare perfino di una seratina di alcol e sesso con una detenuta, non esiste consenso in un rapporto tra un uomo libero e una donna dietro le sbarre, ma tant'è, la difesa ad oggi resta questa, nell'imbarazzo profondo e nella vergogna che ora diventano dell'arma intera e del suo comando generale. Una vicenda che certo avrà sviluppi nei giorni prossimi. Voglio concludere leggendovi una spassosa intervista, io l'ho trovata straordinaria, Thomas Salme, questo personaggio intervistato dal giornale a pagina 17, sentite il titolo già, ho pilotato aerei per 13 anni senza brevetto, ho trasportato 1 milione di passeggeri, ho lavorato per le più grandi compagnie, ho guidato Boeing per 11.000 ore di volo, poi una soffiata lo ha riportato a terra. A 42 anni la storia di Thomas Salme, che si è inventato il brevetto di volo. Ha detto che di aver lavorato per la Aladdin Airlines, pensando ai cartoni animati, pensavo mi avrebbero scoperto. Invece no, si è trovato a volare anche pare sull'Air One. Ma come hanno fatto a smascherarla alla fine? È una soffiata. Ma com'è possibile che nessuno se ne sia mai accorto? Ma non me lo spiego neppure io. Ma come, cioè, questo si è svedese, ha fatto la scuola a Stoccolma della SAS, la compagnia di bandiera, entrava di notte, provava col simulatore di volo e alla fine senza brevetto, cioè ha pilotato i nostri aerei, magari ci siamo andati anche a bordo, vi è capitato, aerei delle più grandi compagnie. E alla fine è stato beccato, è stato condannato, sì, 2.000 euro di multa, 2 settimane di carcere e la licenza ritirata. Ma come la licenza ritirata? Lei non ce l'ha mai avuta. E infatti sono stato fortunato. Comunque, devo dire, sono stato un pilota, ero magnifico, ero un pilota eccezionale. Studiavo di nascosto, facevo tutto da solo, ma ero un talento. Solo un errore una volta ho fatto. Ah sì? Sì, sì, ho fatto un errore. E cioè? Io svedese, sa, una volta sul Milano-Roma, gente serissima, a bordo politici, uomini da affari, faccio il saluto, sono il comandante, anzi l'aiuto comandante, arriveremo con 10 minuti d'anticipo perché abbiamo il vento in culo. Come il vento in culo? In coda si dice, sono uscito in cabina e mi sono scusato, ma mi hanno applaudito tutti. Straordinario il pilota falso, Thomas Salme, il GR.